Canto ventisettesimo della Divina Commedia, Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventisettesimo. Sì, come quando i primi raggi vibra, là dove il suo fattore il sangue sparse, cadendo ibero sotto l'alta libra, e l'onde in gange da non ariarse, si stava al sole, onde il giorno sen giva, quando l'angelo di Dio lieto ci apparse. Fuor della fiamma stava in sulla riva e cantava: «Beati mundo corde!» in voce assai più che la nostra viva. Poscia, più non si va se pria non morde anime sante il fuoco. Entrate in esso e dal cantar di là non siate sorde. Si disse, come nodi fummo presso, perch'io divenni tal quando l'ontesi, qual è colui che nella fossa è messo. In sulle man commesse mi protesi, guardando il fuoco e immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Volsersi verso me le buone scorte e Virginio mi disse: «Figliuol mio, qui puote esser tormento, ma non morte. Ricordati, ricordati, se io sovresso Gedeon ti guidai salvo, che farò or che son più presso a Dio? Credi per certo che se dentro all'alvo di questa fiamma stessi ben 1000 anni, non ti potrebbe far d'un capel calvo. E se tu credi forse che io ti inganni, fatti ver lei, e fatti far credenza con le tue mani al lembo dei tuoi panni. Pon giù, omai, pon giù ogni temenza, volgiti in qua e vieni oltre, sicuro». Ed io, pur fermo e contro la coscienza, quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco disse: «Or vedi, figlio, tra Beatrice e te è questo muro, come al nome di Tisbe. Aperse il ciglio Piramo in sulla morte riguardolla, allor che il gelso diventò vermiglio, così la mia durezza fatta solla mi volsi al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla. Ond'ei crollò la fronte e disse: «Come? Volemci star di qua?» Indi sorrise come al fanciul si fa che è vinto al pome. Poi, dentro al fuoco, innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Com'io fui dentro, in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'era ivi lo incendio senza metro. Lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava dicendo: «Gli occhi suoi già veder parmi». Guidavaci una voce che cantava di là, e noi, attenti pure a lei, venimmo fuor là ove si montava. «Venite, benedicti patris mei!» sonò dentro a un lume che lì era, tal che mi vinse a guardar non potei. «Lo sol sen va», soggiunse, «e vien la sera. Non v'arrestate, ma studiate il passo mentre che l'occidente non s'annera». Dritta salì la via per entro il sasso, verso tal parte, chiuto il lieve i raggi dinanzi a me del sol che era già lasso. E di pochi scaglion levammo i saggi, che il sol corcar per l'ombra che si spense, sentimmo dietro ed io ed i miei saggi. E pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto d'un aspetto e notte avesse tutte sue dispense, ciascun di noi d'un grado fece eletto, che la natura del monte ci affranse la possa del salir più che il diletto. Quali si fanno, ruminando, manse le capre, state rapide proterve sopra le cime avanti che sian pranse, tacite all'ombra mentre che il sol ferve, guardate dal pastor che sulla verga poggiato sé e lor poggiato serve, e quale il mandrian che fuori alberga lungo il pecunio suo queto per notta, guardando perché fiera non lo sperga, tali eravamo tutti e tre a lotta, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi dalla grotta. Poco potea parer lì del di fuori, ma per quel poco vedi io le stelle di lor solere più chiare maggiori, sì ruminando e sì mirando in quelle mi prese il sonno, e il sonno che sovente anzi che il fatto sia sa le novelle. Nell'ora credo che dell'Oriente prima ragione il monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, giovane bella, in sogno mi parea donna vedere andar per una landa cogliendo fiori e cantando dicea: sappia qualunque il mio nome dimanda ch'io mi son Lia, e vo movendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'adorno, ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto il giorno. Ell'è dei suoi begli occhi veder vaga come io dell'adornarmi con le mani, lei lo vedere e me l'ovrare appaga. E già per gli splendori antelucani che tanto ai peregrin surgon più grati, quando, tornando al berga men lontani, le tenebre fuggien da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levami veggendo il gran maestri già levati, quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosse di piacere a queste uguali. Tanto voler sovravoler mi venne dell'esser su, ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in solo grado soperno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse: il temporal fuoco l'eterno veduto hai, figlio, e se venuto in parte, ov'io per me più oltre non discerno. Trattoto qui con ingegno e con arte, lo tuo piacere omai prendi per duce, forse dell'erte vie, forse dell'arte. Vedi il sole che in fronte ti riluce, vedi l'erbetta, i fiori di arboscelli che quella terra sol da sé produce, mentre che vengono lieti gli occhi belli che lagrimando a te venir mi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettarmi o dir più nel mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora, non fare a suo senno, perch'io te sopra te corono e mitrio. Fine del canto 27.